fede sciolta il crime, te ne vai, di Dolimando, per queste piagge, te ne vai di Dolimando, per queste piagge, lieta, lieta, lieta, lieta, lieta, lieta, lieta, lieta, cantando, cantando e ballando, e ballando, e ballando. Lieta, lieta, lieta, cantando, cantando e ballando, cantando e ballando, cantando e ballando. Non scuoti all'erbe le fresche brine, non scuoti all'erbe le fresche brine, le fresche brine. In un giorno